Non ci sono problemi da parte mia, sono situazioni che sono state evocate dal Presidente della Camera. Io non ho problemi a riguardo del funzionamento del Popolo della Libertà. Ci sono due concezioni diverse in campo. La mia, quella che vede nei partiti politici, dei movimenti che devono essere presenti nel territorio, che devono comunicare alla gente i risultati di governo, che devono organizzarsi per i momenti elettorali. Per fini il partito deve invece svolgere funzioni più allargate e all'interno del partito che devono discutersi le decisioni che poi vengono prese dai gruppi della maggioranza del partito stesso alla Camera e al Democrazia Senato. interna. Democrazia interna ce n'è in Forza Italia, ce n'era non tanta, ma esagerata.